Noi siamo l'unica cooperativa ormai rimasta di un progetto che ne vedeva presente quattro e offriamo questo servizio all'interno del raccordo anulare di Roma, per cui abbiamo localizzato la nostra distribuzione in tutta la città di Roma come condizione agli abitanti che abitano all'interno del raccordo. Per quale motivo potremmo dire che dopo tanti anni, beh, la spesa online non è decollata? Quali sono stati i problemi fino ad oggi che avete incontrato? Ma ci sono diverse tipologie di problemi, se si possono chiamare poi problemi. Allora, intanto partirei da quella culturale, che forse viene anche meglio, si spiega anche più facilmente. Sicuramente rispetto ad altri paesi stranieri, ho presente l'Inghilterra, la Gran Bretagna, ho presente l'Olanda, piuttosto che la Germania, noi fortunatamente, credo, insomma, siamo ancora un paese abituato a mangiare bene. Quindi la composizione del carrello, di un consumatore medio è sicuramente più ampia rispetto all'offerta che invece in questi paesi viene data. E quindi questo limita un po' sicuramente il decollo di questa tipologia di commercio. Il carrello è più pesante. Offriamo meno i prodotti pronti, ma la spesa che viene effettuata tramite l'e-commerce è sempre una spesa, potrei dire, tradizionale, quella che fa una persona recandosi in un nostro punto vendita. Come tradizionale, del resto, è la preparazione proprio della spesa, quindi se uno volesse seguire il percorso della sua richiesta online, quindi venisse poi in punto vendita e volesse vedere come viene preparata la merce, si renderebbe conto che c'è una persona fisica che gira con il carrello con una lista di prelievo che è la sua spesa online, la mette dentro un carrello e poi la deposita in contenitori destinati per il fresco piuttosto che per i surgelati o per gli industriali, poi questa viene caricata, compone un pallet, viene caricata su un furgone adibito alla consegna e viene portata a casa. Quindi potremmo dire che comunque alla media degli italiani, cioè a quasi tutti gli italiani, continua a piacere fare la spesa dal vivo. Ma io direi di sì. Prendere l'automobile, andare, perdere Sì. anche del tempo a volte, perché. Ma io direi che c'è questo abbinamento del ludico con il piacere. Il fatto comunque, credo che l'italiano ancora oggi apprezzi molto il gusto dei profumi, dei sapori e dei colori. Sì, anche se Quindi, molti prodotti del supermercato hanno pochi profumi, pochi sapori perché sono confezionati. non è proprio vero nella totalità, nel senso che negli ultimi anni c'è quello che viene definito il nuovo format di proposta. Si stanno richelando un po' quegli angoli tradizionali. C'è la pescheria, c'è il salumiere, c'è il banco dei formaggi, c'è la panetteria. Per cui anche nella spesa c'è questa riproposizione dei mestieri. E questo sicuramente aiuta molto la frequentazione. Noi abbiamo avuto un'ottima risposta da questi nostri format e vedo che poi anche la concorrenza si sta muovendo con le loro proposte, ma insomma in maniera chiaramente uguale. Il difficile è tante volte acquistare la fiducia nel riposizionare quello che uno vede all'interno di un sito online.